Amen. Buongiorno Chiesa. Buongiorno Chiesa. Gesù è vivo. Sì? Gesù è vivo, lo abbiamo cantato, lo abbiamo adorato, abbiamo glorificato il suo nome, abbiamo visto che questo può significare, grazie Ruben, può significare tanto nella nostra vita avere un Gesù che è vivo e che non è morto. Sì? Ti piace? Oh, uno, facciamo non essere solo il fratello, Gesù è vivo e ci piace! Questo è da domenica, grigia, senza sole, fredda dell'autunno, ma una chiesa che è viva perché ha un Gesù vivo, dice Gesù è vivo e mi piace! Woohoo! Gesù è vivo e mi piace! A me piace un sacco avere un Gesù vivo, mi piace un sacco la chiesa! Sì? 2 settimane fa o 3 settimane fa più o meno ho già predicato un messaggio che si chiama La Chiesa mi piace. E voglio continuare questo. Chi non l'ha sentito può alzare la mano. Era di domenica sera, quindi forse molti non c'erano, però è su YouTube, lo puoi sentire, e puoi spendere del tempo con me. Ma stamattina ancora voglio parlare di questo, perché sapete una cosa? La Chiesa mi piace tantissimo. Diciamolo in maniera sgrammaticata, a me mi piace tantissimo. La Chiesa a me mi piace molto, molto, molto, molto. E queste settimane sto avendo l'onore di poter parlare con diverse persone. Persone che non vanno in chiesa. Questa settimana ho avuto una conversazione molto bella con una persona che non è mai entrata in una chiesa, ma aveva un'idea chiara di cosa fosse la chiesa. E mi ha detto, la chiesa è un luogo noioso, è triste, è statico, devo andare, mi devono dire cosa fare, mi devo sedere su delle sedie scomode, devo avere un brutto caffè, devo vedere le persone con le facce annoiate, tristi. E io ho pensato, non sei mai entrato nella mia chiesa. Noi abbiamo un buonissimo caffè, è vero? Per chi lavora al bar. Noi abbiamo delle sedie super comode. Noi paghiamo le persone per sorridere. Vero che venite pagati? Sì. Noi abbiamo la chiesa più bella del mondo. Così ho detto, vieni e vieni a vedere. E lui è entrato e mi ha detto, mi piace questa chiesa, non sembra una chiesa. E io ho detto, questa è proprio la chiesa. E lui mi ha dato una definizione molto bella di cosa per lui doveva essere la chiesa. E l'ha detta così, per me la chiesa dovrebbe essere una living room, e cioè un soggiorno, diciamo così. Un posto in cui le persone si siedono, stanno, parlano, prendono un caffè, parlano di Dio. E ho detto, noi abbiamo fatto una living room nella nostra chiesa, abbiamo sistemato tutto, abbiamo il divano nella nostra... L'avete visto che bello il divano? È bellissimo il divano e ne arriveranno altri. Ma mi è piaciuta questa definizione, ho detto sì. Questa deve essere la Chiesa. La Chiesa deve essere un soggiorno, ma non uno di quelli come ce l'ha, non so, la nonna o la mamma con il divano bello incelofanato, che non ti puoi sedere, con il servizio di piatti che usi solo quando arrivano gli ospiti o non si sa mai per qualcuno che viene. No, no, la parola living room, che noi traduciamo come soggiorno, ha più a che fare con la stanza della casa che più vivi. Cioè quella in cui entri, in cui leggi qualcosa, in cui hai la possibilità di parlare, hai la possibilità di sederti, hai la possibilità di stare. Qual è la stanza della tua casa che usi di più? La cucina. Noi italiani, il cucinino. Qual è la stanza della casa che usi di più? Casa nostra, il soggiorno è buono, è buono, è abbastanza bello, è largo. E questa persona che non ha mai, che non è mai entrato in una chiesa e mi ha detto la chiesa dovrebbe essere un soggiorno. E mi piace, perché la chiesa dovrebbe essere un posto molto trafficato, un posto in cui tutti si sentono a loro agio, un posto in cui tu puoi stare, un posto in cui tu puoi avere un tempo rilassato, un posto in cui, come diceva Luigi, tu puoi incontrare qualcun altro e dire ma tu che cosa stai vivendo di Dio? Dimmelo, perché io voglio vivere di più. Quindi se tu mi dici cosa stai vivendo di Dio, io posso viverlo di più. E quindi me ne torno a casa che ho una maggiore esperienza, anzi, vi dico questo termine, una maggiore conoscenza, ve lo spiegherò dopo. Perché quando entriamo in chiesa, noi veniamo e dobbiamo venire con l'aspettativa di incontrare di più Dio. È vero, veniamo per questo? Tre persone. Vieni qui con la fame di dire, oh, che bello, arriverò e sarò distrutto dalla mia settimana difficilissima, ma tornerò a casa e sarò molto meglio e avrò le forze per ricaricarmi, per affrontare una nuova settimana. Chi di noi è venuto con questa aspettativa oggi? Bellissimo, vogliamo pregare un attimo? Lascia la tua mano alzata, anzi fai così, abbassa la tua mano, mettila sul braccio, sulla persona vicino. Signore, ti preghiamo che la nostra aspettativa di quello che viviamo ogni domenica possa alzarsi secondo l'esperienza e la conoscenza che noi vogliamo avere di te. Spirito Santo, vogliamo tornarcene a casa più pieni di come siamo arrivati. Vogliamo conoscerti di più, vogliamo vedere te all'opera, vogliamo vedere che compi miracoli, vogliamo vedere che sei adorato, vogliamo spingere nella nostra anima per adorarti anche quando non abbiamo le forze e vogliamo tornare a casa carichi per vincere nuove anime in questo mondo, nel tuo nome Gesù. Amen. Amen. Sei pronto per questo? E allora benvenuto a casa, perché se non sei venuto con questa fame ti dico, questo non è il posto per te. Se sei venuto qui perché qualcuno ti ha invitato, devi venire, o perché devi segnare una X su un foglio di presenze, non è il posto per noi. Gesù a un certo punto ha voluto comunicare ai suoi intimi amici, ai suoi discepoli, qualcosa. E lo ha fatto in maniera intima, comoda, mentre era in un soggiorno, forse in una cucina, non so, in una sala da pranzo. Ed è troviamo questo bellissimo discorso da Giovanni 13 a Giovanni 17. Sono quattro capitoli straordinari. Cominciano così. Prima della festa della Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio e da Dio tornava, si alzò dalla cena, depose le sue vesti e tutto il resto. Gesù, prima della Pasqua, prima di dover morire, ha preso i suoi discepoli, li ha riuniti in maniera intima, in quel momento erano 13 e sarebbero diventati 12 di lì a poco, e ha cominciato a comunicare a loro dei segreti, cioè le ultime raccomandazioni. Queste sono le ultime raccomandazioni di Gesù ai suoi discepoli per dire quello che c'era da fare, come c'era da fare, quando lui sarebbe ritornato al Padre. E troviamo nel capitolo 13 Gesù che lava i piedi ai suoi discepoli. E poi troviamo al capitolo 14 qualcosa di molto bello, e ancora quello della promessa del Consolatore, io me ne vado ma verrà un altro dopo di me. Il capitolo 15, voi siete la vite e io sono il tralcio. E nel capitolo 16, che è quello che leggeremo stamattina, una parte del capitolo 16, Gesù comunica qualcosa di molto speciale. Leggiamoli insieme. Dal verso 1 al verso 14. Giovanni 16, dal verso 1 al verso 14. Io vi ho detto queste cose affinché non siate sviati. Vi piace? Cioè, vi dico tutto in maniera che se non capite niente, sapete che io ve l'ho detto, che così è un po'. Vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi, l'ora viene che chiunque vi ucciderà crederà di rendere un culto a Dio. Vi suona contemporaneo? Faranno questo perché non hanno conosciuto né il Padre né me. Ma io vi ho detto queste cose affinché, quando sia giunta l'ora, vi ricordiate che ve le ho dette. Non ve le dissi dal principio perché ero con voi, ma ora vado a colui che mi ha mandato e nessuno di voi mi domanda dove vai? Invece, perché vi ho detto queste cose, la tristezza vi ha riempito il cuore. Eppure io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me. Quanto alla giustizia perché vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Amen? Ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata. Che bello che Gesù sa quanto siamo stupidi e quindi ci capisce. Quando però sarà venuto Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà di suo, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annuncerà le cose a venire. Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà. Che bello! Capitolo 13, venite qua, vi devo spiegare le cose. Capitolo 14, vi lascio una garanzia, io me ne vado, ma vi mando il Consolatore. Capitolo 15, state in me, rimanete in me se volete portare frutto. Capitolo 16, attenti, perché qualcosa sta per succedere e non vi piacerà sempre, vi uccideranno, vi ammazzeranno, ma verrà qualcuno che vi consolerà. Quindi non preoccupatevi, e siccome Gesù forse ha visto la faccia dei discepoli sbiancare sempre di più, ha chiuso Giovanni 17 pregando, ha detto, beh, preghiamo, e ha pregato la preghiera sacerdotale che siano uno come noi siamo uno, eccetera, eccetera. Io amo Gesù quando prega per i suoi figli e dice, beh, Signore, vedi tu questi che non stanno capendo niente. Gesù ha spiegato ai suoi più intimi amici che era necessario che lui se ne andasse. E per quanto quel momento, che è durato 3 anni, fosse così bello, intimo, ricolmo, pieno, con 12 eroi, hanno fatto la differenza nel mondo, hanno conquistato molte vite, guarito malati, liberato da demoni, eccetera, ma Gesù conosceva la necessità di dover tornare al Padre affinché i suoi fossero maggiormente equipaggiati. Quello che Gesù sta dicendo è: io me ne vado perché voi avete bisogno di qualcos'altro, e quel qualcos'altro, quel qualcun altro è lo Spirito Santo. E il Signore ci sta guidando attraverso i messaggi che il pastore sta portando a ricercare questo qualcosa in più. E fino a quando noi non lo vediamo, possiamo accontentarci di quello che abbiamo già. Ma il Signore ci sta spingendo, e sento forte le parole di Gesù questa mattina che ci dicono: se io non me ne vado, voi non potrete averlo, ma è buono per voi che io me ne vada. Perché? Perché possiate avere lo Spirito Santo. Gesù sta dicendo: la presenza dello Spirito Santo in voi è più importante del fatto che io rimanga qui con voi, perché se io me ne vado, Lui vi guiderà in tutto quello che c'è da fare. Quando Gesù era con i suoi, Gesù era con i suoi. E i suoi con chi erano? Erano con Gesù. E allora succedeva che non riuscivano a liberare dai demoni, e che facevano? Andavano a piangere a Gesù. E le persone lì li offendevano, e cosa facevano? Andavano a piangere a Gesù. Arrivavano le guardie, e loro cosa facevano? Ma è Gesù, vedi un po' tu cosa puoi fare. Gesù sta dicendo in questo momento: c'è qualcosa che deve cambiare, c'è qualcosa che deve cambiare, e voglio che cominci da voi. È quello che di grande Gesù aveva preparato per i suoi discepoli, che era una cosa piccola: conquistare questo mondo, andare e fare discepoli di tutto il mondo. Ha detto: non può succedere fino a quando voi non ricevete lo Spirito Santo. Quindi non solo ha preparato il pacco, ma ha preparato anche la carta, ha preparato anche il bigliettino e ha preparato anche il momento. Così Gesù non solo ha previsto la via, ma ha previsto anche l'equipaggiamento. E se lui non andava via, non potevamo riceverlo. È per questo che Dio dice: è necessario. E cosa fa lo Spirito Santo? In Giovanni 16 Gesù ci spiega che oltre ad essere il Consolatore, quindi colui che ci aiuta, il Paracletos, l'assistente in realtà significa specificatamente, proprio il simbolo della stampella, Paracletos, che ti aiuta. Dio ha detto, Gesù ha detto, lo Spirito Santo convince di peccato, di giustizia e di giudizio. Quando sentiamo queste tre cose, non so a voi, ma nella mia testa succede qualcosa. Ok, allora, Gesù, hai appena detto che non vi posso spiegare tutto perché non è alla vostra portata. Ecco, questo verso è difficile, è vero. Tutti quanti lo capiamo in maniera chiara, come Gesù ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio? No, è un verso un tantino più, un po'... Allora, cerchiamo di capirlo insieme, non voglio ergermi a colei che l'ha capito pienamente, ok? Quindi vi lascio intendere quello che io ho capito. Lo Spirito Santo convince di peccato questo mondo. Ed è bellissimo. E sai come possiamo capirlo? Ricordati il giorno in cui hai incontrato Gesù. Il primo giorno in cui Gesù ha bussato al tuo cuore e ha detto toc toc, c'è qualcosa che non va. Ecco quella sensazione che abbiamo vissuto, quella consapevolezza che fino ad allora avevi vissuto in un bidone di immondizia, quello è lo Spirito Santo che ci ha convinto di peccato. E cioè che tutto quello che abbiamo fatto fino ad allora, per quanto ci sia sembrato buono o sbagliato, comunque è stata separazione da Dio. Quella consapevolezza chiara che se qualcuno non ci dà la mano, noi non possiamo assolutamente incontrare Dio perché c'è una distanza enorme che si chiama peccato. E ancora meglio, noi lo possiamo capire quando proviamo a parlare a qualcuno di Gesù. Hai mai provato a parlare a qualcuno di Gesù che si sente bene? A tratti ti convince, non è lo Spirito Santo che convince lui, ma è quella persona che convince te di non aver bisogno di Gesù. È vero, vi è successo. Perché dice, ma questa è una persona brava, fa tutto quanto bene. Noi viviamo in un mondo di brave persone. Noi viviamo circondati da un'enorme quantità di persone brave, che fanno del bene, che non dicono parolacce, che non fanno schifezze o che... Io conosco un sacco di gente così e posso convincermi ad un certo punto che la loro condizione sia approvata davanti a Dio. Invece no, perché la loro condizione comunque è separazione da Dio. E questo convincimento di peccato e questo farti vedere delle cose che non avevi visto prima, questo è lo Spirito Santo. E a un certo punto lui viene nel nostro cuore e ci convince. Di cosa? Del fatto che senza di lui noi non possiamo arrivare a Dio. O ce l'hai o non ce l'hai questa convinzione. E per quanto mi sono sforzata di parlare in tutte le lingue, in tutte le salse, con tantissime persone intorno a me, credetemi, se non arriva lo Spirito Santo a convincere che Gesù è vivo, non perché lo hanno sentito dire da quando sono piccoli, ma perché è vivo nella nostra vita oggi. Se lo Spirito Santo non fa qualcosa, noi possiamo parlare, ma non succede niente. È vero questo? Ci ritroviamo? Ecco che è lo Spirito che deve convincere di peccato. Lo Spirito deve convincere anche di giustizia. E che significa? Gesù specifica di giustizia perché io vado al Padre e non mi vedrete più. Questo vuol dire che molto probabilmente era più semplice che Gesù fosse sulla terra e per tutti gli uomini capire che quello era il figlio di Dio e che lui era giusto. Ma è la giustizia che si forma in lui, che si concretizza in lui, che è lo Spirito Santo che deve operarla in noi. Questo vuol dire che dobbiamo avere consapevolezza chiara che Gesù è il giusto giudice, che lui va a performare, a realizzare la giustizia di Dio. Qual è la giustizia di Dio? Pagare per il peccato. E quando comprendiamo invece che Gesù lo ha fatto, allora questo non è un'opera nostra, ma è un'opera che lo Spirito Santo spinge in noi. A un certo punto non solo ci sentiamo peccatori, giusto? Cioè, ricorda il tuo primo giorno. Io ricordo il primo giorno che ho messo piede in chiesa, pianto da morire. Dopodiché ho capito che proprio non potevo più uscire così, che qualcosa doveva succedere nella mia vita e lo Spirito Santo, ora lo capisco, mi ha convinto che non potevo più mettere piede fuori da quel posto senza Gesù. Perché lui ha pagato il prezzo dei miei peccati. Perché in lui Dio mi vede come giusta, cioè giustificata, cioè pagata. Pagata da qualcun altro. E questa è la convinzione profonda che lo Spirito Santo opera in noi. Se tu non hai ancora queste due convinzioni, io prego che lo Spirito Santo oggi possa operare in noi questo. Ed è qualcosa che non può venire assolutamente da nessuna predicazione, da nessuna canzone, da nessuna musica, ma è lo Spirito Santo che lo opera in noi. E noi vogliamo essere pieni di Spirito Santo. Noi vogliamo essere una Chiesa che lascia lo Spirito Santo agire. Io ho molta più fiducia, credetemi, che lo Spirito Santo possa parlare ai nostri cuori, alla nostra mente, di quanto io ne abbia per me stessa. Non ho nessuna fiducia su di me che io possa cambiare la vostra mente e il vostro cuore oggi. Ho molto meno di zero fiducia in me stessa che questi 20 minuti insieme possano farci uscire da qui cambiati. Ma io ho totale fiducia che lo Spirito Santo agisce e parla. Ed è solo per questo che sono sul palco. Altrimenti, credetemi, non ci sarei. Siete con me? Vi piace? Che bello che posso anche non essere sul palco, lo Spirito Santo comunque parla. Amen, quindi me ne posso andare praticamente. L'ultima cosa, lo Spirito Santo convince di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Che bello! Ci piace! Questa è una dichiarazione di vittoria e questa vittoria sai perché ce l'hai? Se ce l'hai, perché lo Spirito Santo l'ha spinta in te. Se lo Spirito Santo ha spinto in te la dichiarazione chiara che Gesù ha fatto, e cioè che lo spirito di questo mondo è stato giudicato, allora vivi da vittorioso. Allora vieni in chiesa e anche se la tua settimana, i tuoi mesi, i tuoi anni sono tremendi, tu sei vittorioso. Non hai più sulla tua testa la nuvoletta di Fantozzi, ma hai una nuvoletta che si chiama vittoriosa. Cosa c'è scritto sulla tua vignetta oggi? Dipende da quello che lo Spirito Santo ti sta convincendo a pensare. Certo è che non sei un perdente, certo è che non sei un fallito, certo è che non capitano tutte a te. Sai perché? Giovanni 16, come comincia? Affinché non siate scandalizzati, vi espelleranno dalle sinagoghe, anzi verrà l'ora in cui verrete uccisi. E questo ci fa essere perdenti? Questo ci fa essere falliti? Questo ci mette in una minor condizione di vittoria? Assolutamente no. Perché? Perché lo spirito di questo mondo è stato giudicato. Amen? Questa affermazione, Chiesa, ci dà l'autorità e la forza, ma anche, fatemelo dire, la bellezza di vivere il nostro processo di santificazione. Cos'è la nostra santificazione? È togliere spazio all'opera di Satana nella nostra vita per diventare sempre più simili a Cristo Gesù. Se noi abbiamo consapevolezza che il lavoro grosso è stato già fatto e che lo spirito di questo mondo è stato già giudicato, allora noi vivremo la nostra santificazione non «Oh, quanto è pesante vivere questa cosa! Mamma mia, come faccio? Guarda, non ce la faccio proprio ad essere puro fino al matrimonio. Guarda, non ce la faccio proprio a perdonare quella persona. Non ce la faccio proprio a salutarla!» Non ce la faccio venire in chiesa, sedermi lì, io devo cercare il posto migliore per... Ehi, se stiamo vivendo queste bugie, noi non stiamo credendo nella verità che lo spirito di questo mondo è stato già giudicato nel nome di Gesù. Anzi, stiamo dicendo, benvenuto Satana nella mia vita. Ti lascio il posto che vuoi, ti concedo tutto lo spazio che vuoi. No, quando vivi questo, quando lo Spirito Santo ci ha convinti, allora dici, oh, io non lascerò spazio. Io non lascerò le mie relazioni nelle mani di Satana. Io non lascerò la mia purezza nelle mani di Satana. Io non lascerò il mio matrimonio nelle mani di Satana, ma io ho già vinto in Cristo Gesù, perché lo spirito di questo mondo è già stato giudicato. Amen? Vi piace? Ti piace? Dì alla persona vicino a te, ti piace? Oh, fatti rispondere di sì. Ma non si convince. Gigi, ti piace? Oh, un sì convinto, altrimenti non ci piace per niente. E lo Spirito di Dio ci convince di questo perché, verso 3, faranno questo perché non conoscono né il Padre e né me. Questo verbo conoscere, che è gnosco dal greco, e non è solo conoscere, piacere, ci conosciamo. No, no, è sperimentare, è avere conoscenza, è avere pratica. Io so cosa gli piace, cosa piace mangiare ad Antonio. Perché? Perché lo conosco. Io sto con lui, vado a mangiare con lui, so quello che gli piace e quello che non gli piace. Io ho esperienza di Dio perché lo conosco. Io so quello che gli piace e quello che non gli piace. Io conosco, gnosco Dio ed è lo Spirito Santo che ci aiuta a conoscerlo. Non a sapere che Dio è morto, è risorto, bla bla bla, no, a conoscerlo, ad avere esperienza di Lui, a sapere quello che Lui penserebbe, a sapere come Lui farebbe, a sapere quello che Lui pensa di me, a sapere quello che Lui pensa di quello che sto facendo, di chi c'è fuori da questa chiesa. Perché? Perché lo conosco, perché ho esperienza di Lui. Ti piace? E al verso 6 dice, Perché vi ho detto queste cose? La tristezza vi ha riempito il cuore. Cioè Gesù ha detto, oh ragazzi, io me ne vado, ma vi mando qualcosa di molto, molto meglio. E loro, no, sta con noi, ti prego Gesù, non te ne andare. Oh, sai, tutti quanti appesi al vestito. No, io me ne devo andare, meglio per voi. No, vi prego, non ci lasciare, Gesù resta con noi. Io me li immagino così. Cioè no, Pietro, cioè io già me lo vedo che Pietro era proprio spalmato. No, ti prego, Pietro. No, Gesù ha detto, ragazzi, non vi fate cogliere da tristezza. Perché vi dico queste cose? È perché so che per voi c'è il meglio e noi no. A un certo punto il nostro caro pastore, che io ringrazio per le sfide che ci pone settimanalmente, che ci fa vivere poi delle settimane fantastiche così sui ferri, a un certo punto il pastore è salito sul palco, io credo fermamente spinto dallo Spirito Santo, e ha detto, Chiesa, c'è un cambiamento per noi. E non so come hai reagito tu, ma io ho detto, che bello! Io amo i cambiamenti, io sono sempre entusiasta per i cambiamenti. Se tu mi dici cambiamo, io sì, dai, bellissimo. E poi il pastore ha detto, in che cosa cambiamo? Io, no, non voglio cambiare, voglio rimanere così com'è. Ma perché dobbiamo cambiare? Ma stiamo così bene, ora abbiamo anche una bella ola, abbiamo una bella chiesa, abbiamo 40 anni di esperienza di chiesa. Perché dobbiamo cambiare? E Gesù sta dicendo perché c'è pronto qualcosa per voi di molto meglio. E la reazione che i discepoli hanno è esattamente la nostra reazione al cambiamento. Non dobbiamo vergognarci. E sarebbe strano se noi fossimo, andiamo, spacchiamo tutto! E no, ci sta che viviamo crisi. Ci sta che vogliamo restare qui dove siamo. Perché? Perché i discepoli sono rimasti 3 anni in qualcosa di incredibilmente bello. Mangiavano, dormivano con Gesù, vedevano Lui operare miracoli, vedevano Lui liberare da demoni, vedevano malati guariti. Cosa c'è di così più bello di questo? Se mi chiedessero con una macchina del tempo a quando vuoi tornare, oh, io vorrei essere lì quando Gesù era sulla terra, per vedere con Lui, per stare con Lui, anche da lontano, ma io avrei voluto essere lì. E i discepoli hanno avuto la stessa reazione. No, per piacere, no. È così bello quello che abbiamo vissuto. Così fantastico dove siamo arrivati. Wow, 3 anni straordinari e Gesù continua a dirgli guardate che c'è molto di più. Guardate che il cambiamento porterà voi in un nuovo territorio. Guardate che non vi lascio soli. Guardate che io vi equipaggio per questo cambiamento. Anzi, vi ho preparati fino ad ora e vi continuerò a preparare per quello che c'è in serbo per voi. E io sono nelle stesse condizioni dei discepoli. Ma perché dobbiamo cambiare? Ma serve veramente cambiare? Ma è così bello. E sai, quello che ho imparato in questi anni è che se quando qualcosa va bene, sta per andare male. Se non cambia. Se ci stiamo accontentando di quello che sta succedendo, sta per non essere più sufficiente. E allora abbiamo la nostra esperienza con Dio, abbiamo la nostra vita di chiesa, abbiamo quello che abbiamo conosciuto di Dio fino ad ora, e Dio ci dice, dovete riempirvi di Spirito Santo per le cose nuove. E c'è questa tensione. Non so chi la vive, non faccio alzare le mani, ma io la sto vivendo. E in che cosa potrebbe essere meglio? Potrebbe essere meglio di così la mia vita. E non è per orgoglio, ma io sono contenta di quello che ho avuto fino ad ora. Ma quanto sono cieca! Perché solamente quando quello che c'è di buono ci offusca così tanto che non ci dà prospettiva, che noi ci accontentiamo e pensiamo che non ci possa essere qualcos'altro. Oggi lo Spirito Santo ci sta spingendo, non solo oggi, ma da un bel po' di tempo, a riempirci del suo spirito per lasciare le cose che abbiamo vissuto fino ad ora ed abbracciarne cose nuove. Che cos'è questo? È lasciare l'ordinario, quello che sappiamo fare, quello di cui abbiamo esperienza già per abbracciare lo straordinario. E lo straordinario non arriva se non attraverso il riempimento dello Spirito Santo. Se noi vogliamo abbracciare lo straordinario, se Dio è veramente pronto per noi, e io credo fermamente che Dio è veramente pronto per noi singolarmente, per noi come Chiesa, lo straordinario, allora Chiesa è il momento di lasciare l'ordinario. Cosa vuol dire per te l'ordinario? Cosa vuol dire per me l'ordinario? Non lo so, ma tu lo sai. Io so quello che per me vuol dire l'ordinario. Significa per me svegliarmi ogni mattina e dare il 100% perché finisca la giornata e io abbia fatto tutto quello che c'è nella mia agenda da fare. E sono cose molto belle, ma se voglio lo straordinario, allora devo prendere l'agenda, devo guardarla, chiuderla, mettermi in ginocchio e dire: Spirito Santo, do a te l'autorità. Spirito Santo, devo incontrare quella persona, do a te l'autorità. Spirito Santo, devo preparare un messaggio, do a te l'autorità. Spirito Santo, devo chiamare quella persona, do a te l'autorità. Spirito Santo, devo andare a fare la spesa, do a te l'autorità. Sapete quante volte ho pensato alla cassa? Ora prego per la cassiera. E poi ho pensato, ma rovina il tempo che ho previsto per la spesa. Perché nella mia agenda ho 30 minuti per la spesa. E se prego e questa persona vuole poi parlare e comincia a piangere, forse ne spenderò un'ora e mezza. E non ho questo tempo. E quindi mi sono accontentata dell'ordinario. L'ordinario è fare la spesa in 30 minuti. Lo straordinario è chiudere l'agenda e dire: Spirito Santo, tu hai l'autorità. È venire in chiesa e dire: ok, me ne andrò, saluterò, starò tranquilla. E lo straordinario è dire: no, no, io voglio chiedere allo Spirito Santo una parola per questa sorella. E Spirito Santo, ti prego, dimmi anche solo una parola. Io voglio essere usato, essere usata per cambiare il destino di questa persona. O forse andare al bar e pagare il caffè a qualcuno che non conosciamo e chiedere allo Spirito Santo una parola di rivelazione. Ed avere il coraggio. Ieri lo Spirito Santo mi ha detto questo. Manda un messaggio vocale di queste parole. E lo Spirito Santo, ma sei sicuro? Io sì, tu no. È vero. E ho cominciato a mandare questo messaggio vocale. Ho detto: Spirito Santo, ma è così compromettente. Lo so, chi se ne importa? E questa persona mi ha risposto: solo Dio poteva sapere quello che stavo vivendo. Ieri ho ricevuto un messaggio, mi hanno scritto: Sara, ho parlato di Dio a un mio collega di lavoro, e questa persona ha capito che Dio è vivente. Nella mia testa ho pensato: ti sei fatta guidare dallo Spirito, wow. Ieri è stata una giornata col cellulare, ok? Ho ricevuto un messaggio e diceva questo: questa settimana i giornali e le TV non hanno parlato di questo, ma lo voglio raccontare. Un ragazzo in un treno a Palermo, su un vagone, si è alzato in piedi, spinto dallo Spirito Santo, e ha cominciato a dire: non posso rimanere in silenzio, devo dirvi qualcosa riguardo al Vangelo. E lì c'era un uomo con una bambina, e quest'uomo, non appena questo ragazzo si è alzato in piedi, ha cominciato a gridare: stai zitto e non parlare. E questo ragazzo, intimidito, si è seduto di nuovo ed è rimasto in silenzio. Dopo un po' di tempo lo Spirito Santo ha detto: alzati e parla del Vangelo. E questo ragazzo si è alzato in piedi e ha detto: non posso rimanere in silenzio, devo dirvi qualcosa riguardo a Dio. E quest'uomo con una bambina in braccio ha di nuovo urlato: stai zitto e siediti. E questo ragazzo si è seduto di nuovo. La terza volta lo Spirito Santo gli ha detto: alzati in piedi e di che io sono un Dio vivente. Lui si è alzato in piedi, ha cominciato a urlare, ha detto: non mi interessa cosa pensi, io devo dire che il mio Dio è un Dio potente. E la bambina ha detto al padre: papà, fai parlare questo ragazzo, resta in silenzio. E quest'uomo è caduto per terra ed è svenuto. Sapete perché? Perché sua figlia era sordomuta e ha cominciato a parlare in quel momento. Lo Spirito di Dio ha guidato questo ragazzo a compiere un miracolo e non lo sapeva. E ho pensato: Signore, quante volte sono rimasta io in silenzio? E tu vuoi fare miracoli e tu vuoi cambiare la storia. E io voglio essere piena di questo Spirito. Io voglio rinunciare a quello che so fare, voglio arrendere quello che so fare, voglio lasciare ai tuoi piedi l'ordinario e voglio abbracciare quello che tu, Spirito Santo, hai in serbo per noi. Siamo pronti, Chiesa, a rinunciare all'ordinario e ad abbracciare lo straordinario. Non lo so quello che significa, non lo so, altrimenti non sarebbe straordinario. Forse non lo sai nemmeno tu, però dobbiamo rinunciare a quello che sappiamo per abbracciare quello che non sappiamo ancora. Ripieni di Spirito Santo, possiamo vivere una stagione come non l'abbiamo mai avuta. Amen. Vogliamo alzarci in piedi. Ehi Chiesa, vuoi pregare con me? Non sono qui assolutamente a dire che io l'ho fatto, però lo voglio fare con voi. E sono grata a Dio se lo faremo insieme come Chiesa, di rinunciare a tutto quello che abbiamo saputo fare fino ad ora. Una cosa che va bene può andare molto meglio. E non devi avere paura, perché non, la tua vita non va male, per questo deve essere ripiena di Spirito Santo. Forse perché la tua vita va bene che deve essere più piena dello Spirito Santo. O forse tu sai che così non puoi andare avanti e che quindi hai bisogno di rilasciare la tua vita nelle mani dello Spirito Santo. E questo è un giorno, questo è il giorno che Dio ha deciso per te. E sto cercando di guardare tutti in faccia, sai perché? Perché Dio ti sta guardando in faccia. E Dio sa esattamente quello che hai fatto fino ad ora e quanto Lui ha in serbo per te. Non ci accontentiamo, non ci accontentiamo. Non avere paura, non avere paura di quello che lo Spirito Santo vuole farti vivere. Vuoi lasciare la tua sedia ed andare un attimo solo ad avvicinarti ad un'altra persona con cui hai intimità spirituale? Posso chiederti questo e pregheremo insieme, però non rimanere solo, vai da qualcuno per piacere, pronti? Via, vai da qualcuno con cui hai feeling, con cui ti senti a tuo agio. Non devi dire niente, ok? Devi solo andare, avvicinarti e rendere le distanze più corte, perché questa è Chiesa. E non rimanere soli. Non rimanere soli. Sei con qualcuno? Se non sei con qualcuno, non prego. Sei con qualcuno? E se non prego, non possiamo chiudere l'incontro. E se non chiudiamo l'incontro, non puoi andare a casa. Quindi ti conviene avvicinarti a qualcuno, ok? Sei con qualcuno? Vogliamo pregare. Se hai già il dono delle nuove lingue, parla nuove lingue. Cominciamo a pregare insieme. Spirito Santo, siamo qui come corpo, siamo qui come unità, siamo qui come famiglia tua che hai scelto di mettere insieme per la tua gloria, e ti diciamo che noi assolutamente vogliamo lasciare l'autorità di ogni giorno del nostro destino, degli anni futuri, della nostra vita privata, ma anche della nostra vita di Chiesa, nelle tue mani. E vogliamo arrendere a te ogni vita ordinaria, vogliamo arrendere a te quello che sappiamo fare, vogliamo arrendere a te quello che sappiamo di te, quello che conosciamo di te, perché vogliamo conoscerti di più, vogliamo sperimentarti di più. Voglio conoscerti di più, Spirito Santo. Vogliamo operare nel tuo nome, vogliamo compiere miracoli nel tuo nome, vogliamo predicare il tuo potente Vangelo nel tuo nome, vogliamo andare e fasciare i cuori rotti nel tuo nome, vogliamo portare libertà nel tuo nome, vogliamo spingere la tua mano nella vita di tante altre persone che non ti conoscono ancora, nel tuo nome Gesù. Spirito Santo, e sappiamo che tu non sei solo qui, ma tu sei nelle nostre case, tu sei nelle nostre città, tu sei nel nostro lavoro. Ti prego di guidarci, a fare, a dire, a pensare quello che tu hai deciso, non quello che noi abbiamo deciso. Ti prego, Spirito Santo, facci essere uno con te e guidaci nel tuo nome, Gesù. Nel tuo nome, Gesù.